Eccoci qua, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, puntata 42. Passaggio a Nord-Ovest è appunto la rubrica di Radio Wombat che parla di quello che accade nel quadrante nord-ovest della città, ma più in generale anche quella, tutta la città, insomma, e le immediate periferie. Ricordiamolo, state ascoltando appunto in streaming dal sito wombat.blogs.org, appunto streaming, e la potete ascoltare da qualche settimana anche sulle onde medie 1359 AM, in particolare nella zona nord-ovest della città, ma comunque anche con qualche propagine, diciamo, anche verso il centro, verso le colline. Anche se la ricezione, e questo ve lo chiediamo, e magari potete mandarci il vostro ascolto, come si sente nella vostra zona, apposta Wombat, chiocciola in Siberia.net. Ricordiamo anche che Passaggio a Nord-Ovest, così come tutte le trasmissioni Radio Wombat, la potete riascoltare in podcast andando alla sezione apposita, sempre sullo stesso sito, wombat.blogs.org, e inoltre Passaggi a Nord-Ovest la potete ascoltare, oltre in diretta il lunedì alle 13.30, in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. Siamo qui con Alessandro, un autista, membro militante Covas ATAF, con cui avevamo già fatto un'intervista, ha avuto una trasmissione un po' di tempo fa, e siamo un'altra volta qui davanti ai microfoni Radio Wombat per una sorta di aggiornamento, anche perché nel frattempo in pompa magna, dal punto di vista delle autorità, è stata inaugurata la seconda linea, o quello un prolungamento sostanzialmente della tranvia, e chi abita nella piana nord-ovest della città, almeno, ma è presumibile anche nelle altre zone di Firenze, non è che ha verificato grossi benefici dal punto di vista del traffico. Buongiorno, innanzitutto grazie dell'invito. Eravamo rimasti l'altra volta sull'aspettare questa famosa entrata in vigore della tranvia, che secondo l'amministrazione comunale Nardella e Giorgetti avrebbe risolto i problemi cittadini della città del traffico e della mobilità, anzi sarebbe diventata una città con fiore all'occhiello. Ora, fermo restando che ancora una linea della tranvia, la terza linea, quella dovrebbe collegare l'aeroporto di Peretola con il centro città, ancora è slittata, non è partita, e quindi poi magari faremo un accenno anche su quello. È stata questa partenza della linea 2, che doveva essere la linea 3, che doveva essere praticamente un prolungamento di quella che era la linea attuale del T1, che da Scandicci raggiungeva il centro della città. Dal centro della città quindi siamo arrivati per andare a coprire la zona di Careggi, l'ospedale Careggi, cioè che è il polo medico più importante della Toscana, quindi pensando in questa maniera di poter andare a servire e a poter rendere efficiente l'arrivo al polo ospedaliero. Purtroppo non è stato e non è così. Non è così perché logicamente nel momento in cui è partita la tranvia si è andato anche a ridisegnare tutto quello che è il servizio pubblico su gomma, che logicamente dovrebbe essere un servizio di adduzione alla tranvia. Purtroppo però non è diventato e non è stato, come non è stato per la linea 1, non sta diventando anche per questa nuova, diciamo, prolungamento, il servizio di adduzione, perché per fare un servizio di adduzione efficiente bisogna che non si vada a togliere chilometri, o perlomeno non si vada a levare risorse per quello che è il trasporto per portarlo. La difficoltà maggiore che ci diamo quando nel momento in cui si fa un servizio di adduzione, proprio studiato scientificamente, sono, diciamo, la rottura di cario, cioè l'utente che deve scendere da un mezzo e montare su un altro, fare un pezzetto a piedi o perlomeno e montare su un altro. Questa è già una difficoltà per chi è abituato a prendere il trasporto, e quindi già questa è una difficoltà. Se a questa difficoltà poi gli aggiungiamo che chi scende da un autobus non trova efficiente, non trova subito un altro mezzo, ecco, e la cosa sta andando, insomma, contro quello che dovrebbe essere. C'è l'esempio delle linee che vengono appunto da Campi, da San Donnino. Quello, ma soprattutto ora il grosso scario adesso è diventato sulle linee che vengono da Sesto, perché le linee che vengono da Sesto, che prima è la linea 2, la linea 28, che arrivavano a Firenze, diciamo al centro, alla stazione, adesso sono fermate in zona Piazza Dalmazia. Da Dalmazia l'utente deve scendere, insomma, il cittadino, l'utente come lo chiama l'azienda o come lo chiamano il comune, insomma, diciamo, scende e prende la tranvia. Cosa succede? Succede che allora, zona Piazza Dalmazia, con tutti i semafori che ci sono all'interno, sta diventando un groviglio. Cioè, i cittadini arrivano, cioè anche in macchina, e rimangono bloccati. Ma come rimane bloccato l'autista con la macchina, rimane bloccato anche il mezzo pubblico, il bus. E quindi, soltanto per uscire da Piazza Dalmazia e per poter riprendere la direttrice verso Sesto, quindi andare a prendere via Sestese o via Reginaldo Giuliani, perché insomma chi è della zona lo sa bene, per poter uscire da lì come minimo con le auto dal capolinea, che è situato in via dei Rifredi, insomma dietro Piazza Dalmazia, dove prima c'era il mercatino, per intendersi, da lì ci vuole come minimo 13-14 minuti, soltanto per uscire, perché tutti i vari semafori e tutti i vari attraversamenti che dobbiamo fare. Questo, diciamo, quindi ecco una difficoltà già, e quindi un salto di corse. Perché un salto di corse? Perché non vengono dati i tempi sufficienti, i tempi di percorrenza sufficienti. Perché? Perché dare un tempo di percorrenza sufficiente vuol dire aumentare la percorrenza vuol dire aumentare i turni. Aumentare i turni vuol dire maggior personale vuol dire maggiori spese da parte di ATAF Gestione, che quella gestisce. Vi ricordiamo che ATAF Gestione non è più un'azienda privata, è un'azienda pubblica, ma è un'azienda privata, in cui il loro scopo principale è fare profitto. E quindi, ed ecco, si arriva magari a fare un utile di 2 milioni, però si va a fare un utile di 2 milioni e non si pensa che questi 2 milioni possono essere poi reinvestiti nel servizio per i cittadini, come dovrebbe essere un'azienda di trasporto pubblica. A regime pubblico dovrebbe essere. In più, sempre per quanto riguarda diciamo la non funzionalità, quando è partita, a un certo punto l'hanno fatta partire, dovevano partire in tutte le maniere, doveva partire, perché ormai Nardella, il sindaco, si era lanciato su questa cosa qui, anche per la campagna, doveva partire in tutte le maniere. Addirittura si sono accorti dopo una settimana, dopo qualche giorno, che le ultime corse, soprattutto le ultime corse, sono quelle che interessano i lavoratori che magari dal centro smettono, ai ristoranti, perché sappiamo città turistica come Firenze, ci sono i lavoratori nei ristoranti, eccetera, che fino a mezzanotte e mezzo, un quarto alle una fanno. Si sono accorti che praticamente dalle 11 e mezzo, un quarto, 20 a mezzanotte, non c'era più servizio della tranvia, finiva la tranvia. L'ultima corsa finiva a quell'ora lì. Quando poi invece le ultime corse del 28 e del 2 da Piazza Dalmazia partivano a 10 alle 1 o a mezzanotte e 20, come è adesso, e quindi rimanevano fermi. Cosa è stato fatto allora? Allora c'è stato subito l'intervento da parte del comune, in cui sono andati a Geste, la proprietaria della tranvia, che è di proprietà francese, anche questa privata, logicamente, perché anche qui il comune non ha niente a che fare la decisione, e è andata a chiedere immediatamente l'ampliamento e l'aumento di una corsa sulla tranvia, almeno nei giorni feriali. E logicamente, Geste ha detto: certamente, non ci fa che piacere, però paghi, e a questo punto aumenti, cioè paghi il servizio. E quindi il comune ha dovuto pagare risorse aggiuntive, perché sembra per fare questa tratta ci vogliono come minimo altri tre, un convoglio in più con altre 3 persone, quindi tre persone che Geste ha messo a disposizione, però che il comune ha dovuto pagare. Abbiamo risolto il problema? No, non abbiamo risolto il problema, perché bene o male, considerate da ora come ora, allora, il 28, l'ultima partenza del 28 ora da Piazza Dalmazia è a parlo dei giorni feriali, è a mezzanotte e 20. Quindi da Piazza Dalmazia, uno è in centro, ci deve arrivare in Piazza Dalmazia. Quindi l'ultima tranvia, non l'ultima, la penultima tranvia utile che le porta per poter prendere il tram delle mezzanotte e 20, cioè il bus di mezzanotte e 20, parte dalla stazione, transita dalla stazione intorno a 5 a mezzanotte. Quindi chi i lavoratori, e ce ne abbiamo tante proteste, o si fanno uscire prima, ma difficilmente in un ristorante, oppure non hanno più la possibilità di tornare verso Sesto. Questo se devono prendere il 28, perché l'ultima è questa, non c'è altra soluzione. È migliorata un po' per il 2? Leggermente, perché il 2 è l'ultima partenza che c'era, che adesso sempre da Piazza Dalmazia è a mezzanotte e 50, però è l'ultima possibilità che hanno per prendere quello, per poter arrivare in Piazza Dalmazia, è intorno a mezzanotte e mezzo. Quindi c'è stata una riduzione di servizio in questo senso qui, perché queste erano linee che partivano dal centro. Quindi uno a mezzanotte, un lavoratore fa festa anche a mezzanotte e mezzo, aveva la possibilità di prendere, o a mezzanotte e 40, la possibilità di prendere l'ultima corsa per venire a Sesto a Calenzano. Ora, la possibilità questa non c'era, ha dovuto anticipare un qualcosa come meno di mezz'ora su questa cosa qui. Quindi, questo già per capire un po' la situazione, visto si parla anche nel nord-est della Piana, su questa situazione di Cario è successo. Nello stesso tempo, intorno a Careggi la situazione è diventata, perché come hanno spezzato la linea 28 e la linea 2, hanno ugualmente spezzato la linea storica, era il 14 che ha sempre portato i cittadini a Careggi. Anche questa si ferma alla stazione 14. Da questo punto, se devi arrivare a Careggi, sei costretto per forza a prendere la tranvia. Tranvia veloce, arrivi in 15 minuti, 16 minuti a Careggi. La fortuna vuole se te devi andare a Careggi all'ospedale all'entrata, bene, sei fortunato perché la tranvia ti arriva là. Ma chi deve andare con l'ospedale, faccio un esempio, tutti, forse il più famoso di tutti, è l'ospedale Mayer per i bambini, che si trova in cima alla salita di Careggi. A quel punto lì non ci vai, devi aspettare, o ci vai a piedi o devi aspettare una nuova linea che hanno fatto, che era integrativa, mentre prima c'era il 14 che andava direttamente, va bene, il 14C che andava direttamente. Adesso hanno fatto una linea circolare che è la linea 33, la linea 33 che rimane però come sempre bloccata nell'ingorgo di Piazza Dalmazia, perché anche quella deve attraversare, viene da Rifredi e rimane praticamente bloccata all'interno delle. Quindi le persone, soprattutto che dobbiamo portare bambini, eccetera, che devono andare, arrivare all'ospedale. Ora si parla dei bambini, ma anche lassù c'è Villa Donatella, ci sono tante ville, c'è centri delle analisi in zona Padino San Damiano, insomma c'è tanta roba, Ponte Nuovo, insomma ci sono tanti reparti grossi che a questo punto, prima seppur diciamo qualcosa, però erano serviti una certa regolarità, adesso la regolarità di servizio non c'è su questa cosa qui. Cioè la regolarità di servizio c'è per chi deve arrivare o diciamo al cancello principale di Careggi, o chi durante il tragitto dalla stazione a Careggi sta in zona Piazza Leopoldo, Via dello Statuto, questo, allora lì magari forse questo cittadino ha potuto trovare un beneficio, nel senso ce l'ho lì la tranvia e la prendo, ma lì il resto si continua a dire è rimasto vuoto. Cioè, è stato tagliato un'altra linea, che era quella del 4 che faceva il poggetto, andava al Polo Santa Marzia Universitario da Piazza San Marco. Anche quella è stata tagliata completamente perché dovrebbe essere diciamo dalla zona centrale, cioè la tranvia Porta alla Leopolda. Dalla Leopolda poi lì passa un 55, una linea 55 che fa un giro e dovrebbe collegare i vari poli scientifici, sia quello di Sesto, eccetera. Però è una linea che anche questa, come si interseca in zona Piazza Dalmazia, Via Mariti, queste cose qui è completamente lì, è un caos, è bloccato. Ecco, questo rispetto al taglio delle linee, ma anche diciamo, lo scorrimento degli autobus pare sia più complicato, ecco, rispetto a prima. Ecco, c'era l'ultimo esempio stato del 22. Sembra proprio che abbiano, come dire, guardato più al fumo che all'arrosto. Ecco. Certo, perché pensavano che molto probabilmente ho l'entrata in vigore della tranvia e io non, auguro, cioè, non oso pensare a quello che potrà succedere quando partirà anche quella per Novoli, sinceramente, perché qui si pensa che il cittadino non usi più la macchina. Parte la tranvia e le macchine come d'incanto spariranno. Però non è così. Non esiste, non c'è altra possibilità. La stazione, per parlare giustamente del linea 22, cioè qual è il grosso problema adesso Dio, è la stazione. La stazione, chi va alla stazione anche quello è veramente un ingorgo completo, completo, perché ci sono anche queste, la tranvia passa 3 o 4, attraversa tutti i binari e quindi ci sono i semafori della stazione che come vedete restano le macchine. Continuano a rimanere ferme e rimane bloccato completamente. Ancora la stazione è un polo attrattivo anche per gli auto di transito grosso, perché si attestano tutti, anche quelle sono tagliate, si attestano alla stazione. I transiti vengono fatti alla stazione e lì veramente rimaniamo completamente bloccati. Il servizio di giorno ATAF si salta completamente perché le linee purtroppo che transitano la stazione restano imbottigliate all'interno proprio all'interno della stazione. Ti dicevo, il pericolo più grosso anche, secondo me, quando partirà quest'altra linea, è che questa attraversa, per chi sta a Firenze e lo sa benissimo, attraversa i due viali principali. Uno è Viale Belfiore, all'altezza dell'ex Fiat per intendersi, per andare poi in via Guido Monaco, ripassa Guido Monaco e va a riattraversare via Fratelli Rosselli all'altezza, cioè per entrare in via Lamanni. Quindi sono le due confluenze principali, circonvallazione della città. Se si considera che vogliono portare questa tranvia un transito ogni 3 minuti e mezzo, 4 minuti, considerate che questi hanno la precedenza, la tranvia ha la precedenza sui veicoli, e che il semaforo per i veicoli, diciamo per le autovetture, scatta 30 secondi prima del transito della tranvia. Quindi immaginate chi si sta già vedendo adesso, no? Chi gira un pochino lo vede quante volte si sta fermi ai semafori col semaforo rosso, davanti ai binari della tranvia, aspettare e passi qualcosa e non passa, non arriva niente, e dopo un po' vede arrivare la tranvia. Immaginate a bloccare questi viali ogni 4 minuti per un paio di minuti, quello che potrà succedere. Però questo Staremo a staremo a vedere. vedere, quindi non vorrei essere proprio catastrofico su questa cosa, vediamo. Però bisogna che ci siano, se si vuole fare questo intervento sul trasporto pubblico, che ci trova d'accordo su determinate cose, perché l'utilizzo del mezzo pubblico, cioè dovrebbe essere una città come Firenze, bisognerebbe cercare veramente di usare il mezzo pubblico, evitare la macchina per la salute, per tutto quello che si potrebbe fare una trasmissione apposta su quello, no? Sull'inquinamento, eccetera. Però ci sono le politiche, cioè la stazione deve diventare una zona off limits per le macchine, non può essere più così, cioè c'è un parcheggio, però c'è il parcheggio a trattore della stazione, il parcheggio principale, c'è troppo business dietro, però qui il parcheggio lì va visto una politica, deve essere ristrutturato in maniera diversa, può servire per gli abitanti nel centro che poi sono rimasti per poter parcheggiare loro la macchina, così si eviterebbe anche di levare le macchine dal centro fiorentino se si volesse fare qualcosa veramente anche diciamo, per l'immagine di Firenze. Una città, un centro fiorentino senza le macchine parcheggiate ha già un senso più logico, oppure per dei lavoratori che lavorano lì, però a quel punto lì devi impedire alla gente di arrivare alla stazione. Se tu vuoi portare o prendere qualcuno alla stazione, c'è, secondo me, la possibilità tranquillamente, c'è in zona Fortezza, Piazzale Montelungo, dove arriva il binario 16, per intendersi, che si è dentro la stazione. È anche coperto, non piove, sono 200 metri in cui tu entri direttamente all'interno della stazione. Quindi anche lo scario diciamo, è cario dei passeggeri che arrivano, dei parenti da prendere. Cioè, si risolve facilmente quella situazione su questa cosa qui, quindi. Ecco Alessandro, ha parlato dei disagi e dei problemi per i cittadini, per gli autisti, lavoratori dell'ATAF. Sai, per gli autisti, logicamente, nel momento c'è il caos e diventa sempre più problematica, la sentenza di problematica. Oltre allo stress lavorativo, che sei nel traffico, eccetera, però diventa, ti ripeto, uno stress anche emotivo di discussione. di discussione con il cittadino, chi deve prendere l'autobus, perché quella aspetta, aspetta, aspetta, non lo vede passare, magari ne passa uno scritto deposito perché sta in ritardo, perché viene fatto rimettere in orario e quindi, cioè, vedi magari sulla palina elettronica il discorso passa tra 2 minuti, poi sparisce e ne passa tra 8, la gente riesce a capire il perché è semplice, perché se a quel punto lì, cioè, se gli autobus sono talmente in ritardo, il servizio è saltato e dalla centrale operativa cercano di sistemare, di rattoppare, diciamo, un po' la situazione per vedere di non lasciare isolata un'altra parte della città. Perché faccio un esempio su delle linee che attraversano la città: se sono rimaste tutte bloccate alla stazione e c'è i 7 auto, un 23, che sono tutte le 7 vetture sui 23 sono in zona stazione perché sono rimaste tutte bloccate lì. Cioè, è inutile le faccio andare tutte da una parte, bisogna che tu la faccia tornare indietro per vedere. E quindi, ecco, non si riesce in quel caso lì a fare un servizio adeguato. Ti ripeto, poi a questo ci aggiungiamo anche i problemi aziendali, nel senso che l'azienda e i nostri dirigenti in questo marasma, questa azienda in questo marasma, ci sguazzano e ci vivono alla grande, perché non c'è più, non c'è nessuno che le controlla. La scusa del traffico, la scusa dei blocchi di città le serve tranquillamente, anche per se le corse saltano, nessuno se ne accorge, è colpa di traffico. Ma magari invece ci si accorge che sono state programmate meno, oppure si tenta di ridurre le corse facendo meno, come si diceva prima, tempi di percorrenza, in cui io magari invece di fare, per dire, mi darmi 40 minuti per arrivare, me ne do 30. Tanto 10 minuti, tanto sicuramente tanto saltano e quindi salta la corsa, ma tanto tanto so che salta ugualmente perché è bloccato il traffico, e io intanto ho già risparmiato un turno e quindi un lavoratore a quel punto lì. Questo è un po', e a questo, diciamo, gli ha dato una grandissima mano, e poi magari se ne parla meglio il discorso dell'accordo regionale che è stato fatto per bypassare la famosa gara, ecco. Appunto, prima di parlare di questo, ci sentiamo un pezzo musicale, sono i White Stripes, I Just Don't Know What to Do to Myself. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, need a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. A summer rose, the sun and rain. I need your sweet love to be loved away. I just don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. E appunto è stato un po' introdotto prima del brano musicale, ci eravamo lasciati l'altra volta con una situazione ancora incerta da questo punto di vista, corsi e controricorsi per la gestione. Ecco, ci puoi spiegare un po' meglio. Allora, eravamo rimasti giusto appunto a questa famosa gara regionale in cui tutto doveva essere un trasporto unico, eccetera. È successo, insomma, i ricorsi sono andati avanti, continuano ancora, non si è espressa ancora la Corte europea, a giorni dovrebbe decidere, ma non deciderà perché deciderà che sì, allora perché il ricorso fatto alla Corte europea è quella per sapere se la Corte italiana può, la giurisprudenza può intervenire su una gara europea. Loro potranno dire sì, potete intervenire, quindi loro, insomma, praticamente. Qui c'è da parte della politica, da parte della regione toscana, per non fare l'ennesima figura, diciamo, Cascina. cascina, cosa ha deciso di. Siamo parole gentili, è cascina, per non dire di peggio, ha deciso di trovare un accordo tra tutte le parti. Logicamente, questi mi hanno visto bene perché sono un po', come ladri di Pisa, no? Il giorno si scannano, però la notte e si mettono d'accordo. Quindi qui si sono rispartiti tutto il servizio tranquillamente, alla gestione, quindi Bus Italia fa il suo servizio, a Pisa c'è il lavoro, fa il servizio, la tranvia fa il suo servizio, tutto pagato, quindi si sono spartiti per 2 anni, questo è diciamo, l'introito, quindi tranquillamente, senza, amiamoci, amorevolmente, tutti bene, tutti d'accordo. Però cosa è successo? Sta succedendo che intanto, considerate che i soldi che sono dati sono un'infinità di soldi. E per farvi un esempio, quello che sta succedendo quando vincevo anche non gli interessa più, non c'è più l'interesse anche diciamo, di portare le persone sopra, perché tanto hanno un tot di passeggeri garantiti. Ok? Noi abbiamo un tot di passeggeri garantiti. Per esempio, 10 milioni, mi sembra non sia di più, ora, poi i capitolati bene sono un po' nascosti, quelli non si trovano, i capitolati come tutte le cose pubbliche dovrebbero essere pubbliche, però c'è il bando principale, poi quali sono poi i dettagli, sono le cose, però hanno un tot di biglietti garantiti, ok? Se fanno meno, per esempio 9 milioni, la regione li paga ugualmente 10 milioni, però la regione è stata così furba, ha detto no, però se tu ne fai 11, quel milione lo prendo io. Secondo voi questi tenteranno di farne 11, visto che questi milioni, questo milione, più di un milione, non va nemmeno nelle tasche delle oso? Cioè tenteranno di farne il meno possibile, perché tanto c'è meno servizio. Quindi su questo si spartiscono tranquillamente. Nello stesso tempo però c'è stato l'aumento di biglietto. E tutto quello è derivato dalla famosa carta unica, che si è sentito dire in giro, la carta unica, cioè questa carta per tutta la tariffa uguale per tutta la Toscana, e ha creato del caos più completo, perché in tante città l'abbonamento, non solo il biglietto, che noi è aumentato esponenziale, è diventato il biglietto da 1,20 è passato a 1,50 euro, però gli abbonamenti sono, poi ci arriviamo, sono teoricamente rimasti uguali, però non è così. Nelle altre città, vedo Lucca, vedo Pistoia, Siena, dove magari il biglietto era meno oppure gli abbonamenti erano minori come prezzo, l'hanno dovuto portare alle 252 euro, e quello annuale di tutta la Toscana. Quindi c'è stato un aumento anche di 50, di 5-6 volte di più rispetto a quelli che erano i prezzi. E su questo cosa ha fatto? Poi sono intervenuti, non so se avete letto tutti i giornali, primo, i vari sindaci, il primo quello di Livorno 5 Stelle, per far vedere forse come sono bravi loro e il governo, ha detto: io aiuterò i cittadini dando dei soldi. A questo poi si è aggiunto subito Nardella, si sono riaggiunti gli altri sindaci, cioè praticamente hanno fatto l'aumento di biglietto, che va introito nelle casse di chi gestisce, privati, e loro intanto hanno anche un'aggiunta in più per pagare. Quindi, cioè, pagano addirittura di più rispetto, cioè è il comune cosa dà un'aggiunta, una sovvenzione per poter prendere gli abbonamenti. Questo è quello che è successo. Poi sugli abbonamenti, poi è lì veramente è successa una cosa. Hanno spacciato dicendo che sarebbe diminuito perché con l'ISEE hanno ampliato l'ISEE l'hanno ampliato, sì, e quindi teoricamente una fascia più larga può andare a diciamo, a usufruire dello sconto ISEE, però hanno tagliato tutta quella fascia debole, l'abbonamento che era 120 euro, diciamo, per sotto i redditi di 7.000 euro annui, cioè quello, diciamo, la povertà, oppure penso ai richiedenti asilo, prendo ai migranti, ai meno recenti, tutto questo, questi sono stati levati tutti. Quindi la popolazione, la parte di popolazione più disagiata è stata completamente tagliata fuori, perché questo abbonamento qui non esiste più. Quindi l'abbonamento gli è diventato a tutti 252 euro. Gli studenti universitari, l'abbonamento mensile non esiste più, è solo abbonamento annuale per gli studenti, per gli studenti. Quindi c'è quello che doveva pagare, lo faceva annualmente, però da settembre, da quando gli finisce la scuola, lo deve fare ugualmente. Allora è intervenuto l'università, è tenuta l'università che ha fatto la carta universitaria, eccetera, in cui dice va bene, l'agevolazione, fate che cosa? Allora con 48 euro c'ha l'abbonamento annuale l'universitario, però è poi l'università che dà soldi dopo. Allora, quindi gira e rigira, vedete, quello è stato poi, e si arriva un po' anche al discorso della privatizzazione, no? Quello che si vuol dire che privatizzare il trasporto rende efficace, lo rende efficace e lo rende, rende remunerativo, lo rende remunerativo sì, ma per le casse del privato, non più per cosa. L'esempio di ATAF, in cui da una gestione in cui chiamiamola fallimentare nel senso di bilancio, era un bilancio negativo. Siamo passati a un bilancio inattivo di oltre 2 milioni e mezzo. Va bene, quindi, come Fiorello Chiaro dice, avete visto il privato? Sì, ma attenzione, il privato ha funzionato perché ha funzionato meglio, perché c'è stata riduzione, come si è detto finora, sulle corse, sul personale, 300 persone in meno, e poi questi sono soldi che vanno nelle casse. Loro, non sono soldi, sono profitti. Infatti il pubblico invece Il deve tirare pubblico, fuori più soldi. cioè, questo punto è stato un investimento, cioè secondo noi si poteva, il pubblico può funzionare tranquillamente bene, certo è come è stato impostato il pubblico, in cui a gestire le aziende di trasporto, a gestire qualsiasi cosa, parla di trasporto, ma qualsiasi cosa pubblica, vengono messi vari trombati politici, non sanno più dei partiti dove metterli, è logico, gente che magari ha fatto, una volta fa l'assessore a Sesto, una volta fa l'assessore a Fiesole, una volta fa il presidente di ATAF, una volta fa il presidente di Maggio Musicale, cioè queste cose qui che non è stata una cognizione. Fammi capire una cosa, allora, loro diciamo, ci hanno garantito 10, ad Un tot esempio, di 10 milioni di biglietti, per cui indipendente, tutto ciò indipendentemente da quanto gli è il prezzo del biglietto, per cui se loro lo mettono a 1,80 invece a 1,20 considera prendono l'equivalente di 10 milioni per 1,80. considera i biglietti, però la tariffa è la regione la stabilisce, non può essere l'azienda che dice io lo voglio fare a questo, la tariffa è la regione onde delibera, che quindi sa già che il prezzo è quello e quello non li aumenta, non è che può, capito? Cioè tutte le varie agevolazioni, tutte le cose che deve fare, le aziende devono fare in più o in meno, devono avere l'ok della regione. Se ATAF vuole fare una convenzione con i dipendenti per dire boh, di un'azienda particolare, dire io vi porto a lavorare con 30 euro all'anno, deve avere l'ok della regione. Okay? Quindi Quindi la tariffa è regione, la tariffa è responsabilità è della della regione, regione. è la regione che decide le tariffe. Okay? Logicamente con contrattazione con le aziende, perché prima di arrivare a questo, insomma, non è che ha deciso di punto in bianco, quindi c'è stata una pressione per poter arrivare all'aumento di 1,50 euro, perché loro hanno detto è stata un po' ricattata la regione, vuoi che si faccia l'accordo ponte, vuoi che si faccia vedere che tutto è andato, che tutto va in porto, anche se la gara è saltata, che ci cercherà di unirci tutti, che il biglietto sarà unico per tutti, però tu me lo porti, me lo aumenti. Questo è che è stato chiaro, la strategia è stata questa, eh. Che succede là? Che succede? Senti, allora, la situazione, ti ripeto, è grave, soprattutto anche a livello di lavoratori. Noi abbiamo attivato le procedure contro l'azienda perché la situazione non sta più, non sta degenerando, insomma, secondo me. Qui veramente abbiamo dei tempi, come dicevo, di percorrenza fuori della condizione di tempo, cioè veramente danno. Cioè vengono fatti oggigiorno con il Google Map. Prendono i Google Maps e dice, cioè ci sono delle linee, esempio da Grassina per arrivare Grassino Antella, per farti un esempio, 31-32, per arrivare a San Marco mi danno 25 minuti. Cioè io penso che nessuno calcoli la macchina 25 minuti per poter, se dovrei fare. Considera, c'ha tutte le fermate da fare, stai trasportando le persone, 18 minuti a volte a venire giù da Fiesole, cioè, quindi Quindi questa è una cosa principale su cui ci stiamo dibattendo, la cosa principale è questa, perché a questo punto qui, e più cerchiamo anche oltretutto di avere più persone, sulle assunzioni le stanno facendo abbastanza, però attenzione, quelle vengono fatte adesso, sono tutte Il tempo determinato. sono anche a tempo di, però sono tutte persone distaccate, non è che assume ATAV di per se stesso, assume Bus Italia e poi distacca queste persone all'interno di ATAF. Quindi adesso ci troviamo, fai conto, ad essere 800 autisti. Di questi 800, 300 hanno un contratto diverso dal mio. Io sono un vecchio ATAF, contratto ATAF, con tutta la normativa ATAF e stipendio ATAF uguale. Questi vengono, questi ragazzi lavorano, vengono distaccati, hanno sì la mia normativa, fanno il mio stesso orario di lavoro, hanno le mie stesse giornate di cose, però hanno uno stipendio totalmente diverso rispetto al mio. Rispetto minore rispetto a quello, capito? Minore e quindi diverso, con una normativa diversa e quindi va Salariale a diverso, sì. incidere anche un'organizzazione dei Eh sì, lavoratori. capito, perché diverte. Noi si sta, una delle rivendicazioni è anche il passaggio di questi, diciamo, nuovi Nuovi assenso. assunti direttamente sotto ATAF gestione. Anche. Qual è il pericolo? Cioè, anche legalmente si potrebbe andare a ottenere qualcosa. Il pericolo è che, essendo noi i nostri accordi aziendali disdetti nel 2013, quando state, purtroppo le associazioni maggiormente rappresentative, chiamiamole così, hanno firmato un accordo in cui, per salvaguardare i vecchi, diciamo, detto, questi vecchi hanno questi contratti che valgono, hanno questa normativa e questo salario aziendale che valgono solo e esclusivamente per chi era in forze fino al 2014. Quelli nuovi no, quelli nuovi praticamente non hanno questo. Quindi se ti fai una battaglia in cui tu dici li fai passare e un giudice mi dice li faccio passare, però con quale normative li faccio passare? Con le normative di contratto nazionale. E quindi vanno a perdere anche quel poco, tra virgolette, che potrebbero avere in un contratto di secondo livello di Bus Italia. Perché rispetto a un contratto nazionale in cui il secondo livello non esiste, il contratto nazionale però con il secondo livello di Bus Italia è sempre migliore rispetto a un contratto nazionale semplice. Ecco, questo, quindi la battaglia che stiamo facendo noi su questo è che questi vengono assunti però con le stesse normative, con lo stesso salario nostro. Non si riesce a trovare le voci, si trovano altre voci particolari in cui si dice però adesso alla fine lo stipendio deve essere Lo quello, non ci può stesso. essere questo. Non può essere un passaggio come vorrebbe l'azienda in cui passano e poi per tenere lo stipendio che loro hanno gli fanno un assegno a persona non recuperabile, eccetera, eccetera. Deve essere uno stipendio, il conto dei salari deve essere quello, cioè deve essere pensionabile. Se io prendo 1.100 euro, non possono essere 900 in busta paga e 110 o 200 con assegno a personam che poi viene riassorbibile, non è pensionabile, tutte queste cose qui. Questa è la difficoltà ora, è anche questa. Come concludi? Concludo, speriamo, dai, concludo, vediamo di riuscire a ottenere qualche cosa ora con la prossima vertenza, se dovessimo arrivare a degli scioperi. Vediamo un po' quello che succede con la prossima partenza di questa linea. Io spero che Che tempi c'ha questa reali? Chi lo sa? Non si sa. Io penso che lui, Mandela la vorrebbe far partire subito, velocemente, dice dicembre, eccetera, eccetera. Io ho paura che abbia paura a farla partire quello lì, perché sotto le elezioni magari farà il bello, dice ho fatto partire le tranvie, però il cittadino mi sembra piuttosto arrabbiato su questa cosa. Io credo che il futuro bisogna anche cercare il coinvolgimento, come si è sempre detto. Secondo me, ora più che ora sta diventando Lavoratori lavoratori cittadini. cittadini, non c'è altro. Lo si vede in tutte le varie vicende, insomma, poi che si seguono anche insieme. A volte si vede, insomma, sulla piana, sui vari inceneritori, sulle varie cose. Nel momento in cui tu riesci a fare qualcosa è quando lavoratori e cittadini si mettono insieme. Il trasporto pubblico sta diventando è una cosa principale. A questo punto credo che si siano accorti tutti. Anche chi non ha usato, chi non più usa più l'altro, che il mossa della privatizzazione sia stato un errore madornale a livello di costi e a livello impatto sulla cittadinanza e, parlando poi dal lavoratore, impatto sui lavoratori. A questo punto credo si siano accorti forse che non è quella la cosa, e quindi non so se potremmo riarrivare a un riacquisto del servizio pubblico, però cercare di ramponare e riuscire a far capire che i soldi che vengono che vengono dati devono servire per il trasporto pubblico, per andare ai cittadini e non per andare a fare benefit o a fare cassa su un privato. Questo deve essere una cosa che deve essere all'ordine di giorno sia dei lavoratori ma anche dei cittadini stessi, perché poi alla fine siamo noi lavoratori, i cittadini che pagano. Ringraziamo. Grazie a voi, grazie a tutti. Alessandro, ricordiamo Radio Wombat, wombat.noblogs.org. Ciao ciao.